Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte, eccoci qui, il CLR, questa sera in studio siamo Ada. Ciao, io sono Francesca. Io sono Ada. Allora, di che cosa parleremo stasera? Allora, intanto vi volevo ricordare che potete dare un segnale della vostra presenza inviandoci un trillino allo 06 49 17 50 oppure tramite uno dei vostri gratuitissimi messaggi al numero 338 41 46 682. Allora, ripeti tutto da capo. Allora, anzi, aspetta un secondo, facciamo subito una premessa. Sì. La premessa è che stasera sono io la tecnica e siccome non ho grande dimestichezza, cosa diciamo che avete appena appurato, e diciamo che forse ci sarà qualche problemino, speriamo. Oh, io ce la metto tutta e comunque... Ada, puoi anche ricominciare. Sì, va bene. Come avete capito, è la prima volta che facciamo un programma alla radio, senza le nostre... Noi due insieme, senza le nostre amiche e le compagne che sono molto più brave e più esperte di noi. Quindi vi ripeto che se volete mandarci una presenza, un vostro segnale, potete mandarlo facendo i soliti trillini allo 06 49 17 50 oppure ci potete mandare i vostri messaggi al 338 41 46 682. Lo ripeto, prendete penna, 338 41 46 682. Oggi vi parleremo dell'incontro del 13 maggio che abbiamo organizzato presso la Casa Internazionale della Donna e abbiamo anche un'intervista che ci ha rilasciato Gabriella Romano che ci parlerà di una donna lesbica vissuta nel periodo fascista. Allora, vogliamo parlare prima della nostra iniziativa di giovedì? Bene, allora io vi volevo un po' raccontare questo, che noi come sapete c'è in questi giorni, diciamo, è stata approvata già al Senato la legge sulle mutilazioni femminili e noi già da tempo avevamo cominciato a parlare fra di noi di questa aggressione che viene fatto al corpo delle donne. Però dopo aver esaurito diciamo le discussioni fra di noi abbiamo pensato che sarebbe stato opportuno confrontarci anche con le donne che subiscono questa violenza, per cui abbiamo contattato un'associazione di donne immigrate che si chiama Nodi, i nostri diritti, per confrontarci con loro sulle oppressioni che ci sono nel mondo. E abbiamo chiesto anche all'AIDOS una consulenza e un materiale per poter avviare un discorso poi da ampliare in questo convegno che noi faremo il 13 maggio alla Casa Internazionale della Donna alle ore 18. All you folks that get on my life. Never made any sacrifice. Demons ever on my trail. Standing at the crossroads of hell. Allora, questo incontro si chiama Oppressione a confronto. Ed è nato, vi volevo però spiegare bene l'attività che svolge questa associazione, che sono donne immigrate che vivono a Roma e si occupano soprattutto dei diritti, e loro dicono anche dei doveri, delle donne immigrate. C'hanno uno sportello che opera a Roma in via Borgo Pio numero 15, il telefono è 06 6833 688 ed è aperto da lunedì al sabato. Loro offrono consulenza legale e segretariato sociale, però mi diceva una delle nostre amiche che siccome non hanno dei fondi, il Comune di Roma non ha rinnovato la convenzione, gli orari non sono molto, sono un po' elastici, perché adesso l'associazione si basa soltanto sul volontariato di queste donne del gruppo, per cui se qualcuno che ascolta ha bisogno di questo sportello, magari va una mattina e potrebbe trovare chiuso, quindi ricordatevi di questo. L'oppressione a confronto perché? Perché siccome noi siamo un coordinamento di lesbiche, abbiamo pensato che le oppressioni si devono confrontare. Perché? Perché attraverso l'incontro fra donne di culture e sapere diverse si deve cercare di indagare come e quanto il sistema patriarcale intervenga nelle nostre vite e nella costruzione delle nostre identità, attraverso il controllo e l'accesso ai nostri corpi, alle nostre menti o attraverso la loro cancellazione. Standing at the point, road to crush you down. What is at your back? L'incontro avrà inizio con una proiezione del documentario di Tilde Capomazza che si chiama La Grande Ferita. Saranno proiettate delle diapositive e l'evento è aperto ovviamente solo alle donne. E quindi poi dopo si procederà alla discussione, quindi speriamo che ci siano molte donne che vengano ad ascoltare quello che avremo da dire, sia noi che le donne di Nodi, soprattutto e vogliamo anche il contributo anche delle donne che vogliono, e speriamo che vengano a darci, diciamo, sostegno a questa iniziativa. Poi vi volevo parlare di una scrittrice senegalese che ha scritto un libro che si chiama La parola alle donne africane, si chiama Awa Tiam, che diceva che non è indispensabile essere femminista per constatare l'universalità dell'oppressione di cui soffrono o hanno sofferto le donne. Ci sono state sempre tante forme di oppressione, per il genocidio per esempio che c'è stato in Europa nel secolo XIV e XVII, di milioni di streghe del cui potere parallelo minacciava quello degli uomini e quello della Chiesa, per esempio la mutilazione dei piedi delle cinesi per impedire loro di correre, le privazioni di ogni diritto e di ogni educazione, la clausura di innumerevoli donne dal giorno della loro pubertà fino a quello della loro menopausa nei paesi del Vicino Oriente. Questi esempi sconosciuti non sono che le forme più spettacolari di una dominazione che è stata esercitata contemporaneamente sui corpi e sugli spiriti. In numerosi paesi sono stati degli uomini a denunciare i metodi repressivi e gli abusi di potere, ma stranamente quando si tratta di donne, cittadine di seconda classe, viene steso un pudico velo sulla realtà. Allora, la nostra iniziativa sarà questo giovedì alla Casa Internazionale delle Donne, il appunto giovedì 13 maggio alle ore 18, sala convegni, primo piano. All the bridges that you burn come back one day to haunt you. One day you'll find you walking. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ascoltando, è una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane all'interno dello spazio autogestito femminista e lesbico di Radio Onda Rossa sugli 87.9. Ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. E se le cose che avete da dirci invece sono molte, potete inviarci un'email all'indirizzo di posta elettronica contatti@clrbp.it oppure inviarci un fax allo 06 6864 201, oppure anche, per le amanti della carta, potete scriverci una lettera indirizzandola a CLR presso Casa Internazionale della Donna, via San Francesco di Sal 1B 00165 Roma. Ripetiamo anche il telefono della radio 06 49 17 50 se volete farci sentire che ci siete con i trillini o anche per chiamare volendo, e il nostro cellulare sul quale inviare messaggi 338 41 46 682. E veniamo a quello che è il secondo argomento di questa trasmissione. Abbiamo il piacere oggi di trasmettervi un contributo preziosissimo della regista Gabriella Romano, che penso che molte di voi conoscano. E due notizie per quelle che invece non la conoscessero: Gabriella Romano ha lavorato come giornalista per numerose riviste, quotidiani e per la radio. E nel 90, al termine di un master in regia del documentario conseguito al Goldsmiths College di Londra, cura la regia del suo primo documentario, A Son of the Desert, per BBC 2. Ha realizzato indipendentemente una serie di documentari, tra cui Pazza d'Azzurro, Lesbian Health Matters, L'altro ieri e Ricordare, su omosessualità e fascismo, quest'ultimo. Attualmente coordina la redazione di un progetto web TV su donne, tecnologia e lavoro, prodotto dall'Associazione Orlando e promosso dalla Commissione Europea per le Pari Opportunità, insieme alla Regione Emilia-Romagna. Il suo contributo è prezioso e interessante perché riguarda l'unico caso di ordinanza di confino verso una donna durante l'epoca fascista. Quindi l'unico caso in cui è stato ordinato il confino a una donna per omosessualità. E, niente, andiamo su. Certo, diamo la parola a Gabriella. One who wakes one day to find the prison doors open, the shackles broken, and chaos in the street. Everybody sing with free, free, free, free. Everybody sing with free, free, free, free. Mi interpellate per parlare dell'oppressione alle lesbiche durante il fascismo, che è un argomento di cui mi sono occupata portare a termine uno dei miei documentari proprio su questo argomento, lesbiche durante il fascismo. E soprattutto mi chiedete di parlare di un caso in particolare, allora, di cui mi sono occupata negli ultimi anni. Allora, parto dalla situazione generale per dire che le lesbiche durante il fascismo, la persecuzione delle lesbiche durante il fascismo è difficile da descrivere in un certo senso, perché è una persecuzione che si è esternata in modo molto sottile, subdolo, e molto difficile da appunto descrivere in parole chiare. Non c'è mai stata una legge che ha perseguito, che ha accusato le lesbiche, che ha fatto del lesbismo un reato, a differenza di quello che è successo per l'omosessualità maschile. L'omosessualità maschile è stata dichiarata reato nel 1938, con l'avvento delle leggi razziali, e dunque l'attività omosessuale è stata vista come un'attività contro la purezza della razza, e perciò come un reato politico. Prima del 1938 non era perseguibile in quanto omosessualità, ma veniva perseguita solo se con altre diciture, tipo atti osceni in luogo pubblico, prostituzione, incitazione alla prostituzione, sfruttamento della prostituzione e via discorrendo. Invece per le donne non è stato così, anche perché il codice morale di quell'epoca, potremmo dire che molto di questo codice è stato anche ereditato fino ai tempi nostri, il codice morale dell'epoca non considerava l'atto sessuale tra due donne come un atto sessuale. Durante il fascismo e precedentemente l'atto sessuale presuppone sempre la presenza di un uomo e di una parte attiva e di una parte passiva, e pertanto la legge ha sempre perseguito la parte passiva, diciamo, e comunque la società ha sempre disprezzato la parte passiva, cioè femminile, e dunque è il pederasta passivo, cosiddetto con i termini di allora, che veniva perseguito, così come, perché si sviliva da uomo, scimmiottava la parte femminile, la donna. Di conseguenza l'atto invece maschile, l'atto attivo, sia che fosse espletato con una donna o con un uomo, era sempre considerato un atto positivo e non veniva mai perseguito. L'omosessuale attivo come definizione non esisteva, l'uomo in quanto uomo poteva esercitare e fare tutto quello che voleva, e compreso aveva una libertà illimitata nella sfera sessuale. Di conseguenza l'atto sessuale tra due donne, non essendoci una parte attiva coinvolta in questo, non era considerato un atto sessuale, bensì una devianza psicologica, un atto di follia, e veniva quasi sempre trattato psichiatricamente, questo non soltanto durante il fascismo ma anche dopo. Ricordiamo che negli anni 50 sono moltissime le lesbiche che sono andate negli istituti di cura per i malati di mente e hanno subito delle cure molto pesanti basate sull'elettroshock. Questo non solo negli anni 50 ma anche 60 e ahimè molto più nei giorni molto più vicini a noi. Dunque la repressione è stata effettuata in linea generale, al di là di questi casi limite, è stata generata appunto dal forzato silenzio, dalla coercizione, matrimoni forzati. Le donne venivano esorcizzate se c'era il sospetto di omosessualità, e comunque vivevano in uno stato di quasi permanente segregazione, erano pochissime le possibilità di uscire di casa, e il fascismo offrì alla donna in un certo senso la possibilità di una socializzazione al di fuori della casa tramite tutte queste organizzazioni. Ma appunto queste organizzazioni servivano anche per controllare in un certo senso il tempo libero delle donne. Dunque una parvenza di maggiore libertà che però poi consisteva in un ulteriore maggiore controllo. Io mi sono occupata dell'unico caso di una donna che è stata non mandata al confino ma condannata al confino. La sua pena poi è stata commutata per motivi di salute. Questo è l'unico caso di cui sappiamo e non si sa se ce ne sono altri, è possibile che ce ne siano stati altri, però sicuramente non moltissimi, proprio per il fatto a cui accennavo prima, cioè è l'omosessualità maschile che dopo il 38 viene trattata come un crimine politico e viene punita con il confino di polizia, che era una misura presa proprio per arginare, per punire il crimine politico. L'omosessualità femminile in realtà non è mai stata punita così, che ci risulti dagli archivi. In questo caso questa persona, questa donna di Perugia, il cui nome di battesimo è Fernanda, non posso dire i cognomi perché per la legge sulla privacy ci sono dei parenti vivi e dunque non posso rivelare l'identità delle persone in questione. Comunque questa Fernanda fu condannata a 3 anni di confino in Calabria. E io non ho mai appurato dal punto di vista legale, dovrei consultarmi con un esperto di materia legale di quegli anni, come mai lei si sia meritata questa pena. Comunque ho studiato un po' il caso ed è una storia interessante e più che una storia di oppressione a me è piaciuta perché è una storia di autoaffermazione, direi, piuttosto anomala, è una storia di coraggio, una storia d'amore, una storia interessante. Adesso uno stacco musicale e Tracy Chapman, Sub City. No one would like to admit that there is a city underground. People live every day off the waste and decay of the disguise of their fellow man. Here in Sub City, life is hard. We can't receive any government relief. Won't you please give the president my honest regards for disregarding me. Va bene che la trasmissione seria, comunque potete mandarci lo stesso, farci i trillini e mandarci l'SMS, e dunque trillini allo 06 491750, e SMS al 338 41 46 682. Can't receive any government relief. Won't you please give Mr. President my honest regards for this regarding me. They say we're falling through the cracks. They say the system works, but we won't let it help. They never stop to think we might just want handouts. Way to make an honest pivot. Pivot. This ain't living. Oh, ci è appena arrivato un SMS di una nostra ascoltatrice fedelissima, che è Luisa, che ci ascolta tramite internet da Catania. Buonasera ragazze, baci catanesi. Luisa, grazie. Poi ne è arrivato anche un altro, sono innamorata della mia dentista, che posso fare? Lei neanche mi vede. Fatti curare i denti gratis almeno. Stanno arrivando dei trillini a ripetizione, secondo me sono di protesta per la battuta che hai appena fatto. Credo proprio di no, perché quanto costano i dentisti, almeno quello. Questa era di protesta perché è impossibile farsi curare gratis da una dentista. Vale se ci fa degli squilletti sul cellulare con numero privato, Riassumo brevemente. Allora, questa ragazza Fernanda, figlia di un commerciante perugino, si innamora, probabilmente conosce a una festa una donna dell'alta società di Perugia, di 10 anni più vecchia di lei, una donna molto affascinante. Fernanda insegnava l'inglese privatamente perché era stata ripudiata dal padre, e non sappiamo perché, ma lo deduciamo, insomma, molto probabilmente per questioni legate al suo lesbismo. E allora doveva mantenersi da sola, dava lezioni di inglese, e invece questa donna era inglese, dunque probabilmente avevano qualcosa di cui parlare, qualcosa in comune, un interesse. Si incontrano a questa festa, la donna di cui lei si invaghisce è questa Violet, donna inglese affascinante, sposata a un docente universitario di Perugia. Comincia una storia sentimentale, passionale, insomma, una storia d'amore che nel 26, che procede abbastanza sotto gli occhi, abbastanza chiaramente sotto gli occhi di tutta la cittadinanza, nel senso che le due non fanno molto segreto della loro storia, e anche davanti al marito di questa Violet, che probabilmente capisce che qualcosa sta succedendo, ma preferisce fare finta di niente. O perché inizialmente non dà molto peso alla cosa, o perché ha una sua storia personale, sentimentale, e perciò ritiene che questo distolga l'attenzione della moglie, non si sa. A un certo punto questo professore viene picchiato, viene aggredito da una squadra di fascisti, e viene picchiato perché ormai la situazione è scandalosa, il pettegolezzo sta girando, e lui viene tacciato di non prendere posizione per preservare la moralità, e perciò per non aver ripudiato la moglie, per non averla fermata da questa storia che appunto lede la moralità dell'intera cittadinanza. Il professore, allora, spinto da questa aggressione, decide di ripudiare la moglie, e questa era una cosa possibile all'epoca, sul sospetto, cioè provando che c'era una relazione omosessuale della coniuge con un'altra persona, si poteva ripudiare la moglie senza dover avere tutte le cioè si poteva annullare il matrimonio senza nessun vincolo, nessun onere finanziario. Comincia il processo, un processo nel 28 che scuote l'intera cittadinanza di Perugia, ovviamente un centro piccolo, ancora adesso è piccolo, ma allora lo era molto di più, tutti ne parlano, eccetera. Ovviamente il processo si conclude con l'annullamento di matrimonio di questo professore dalla consorte. Però quello che si capisce dagli atti è che le due donne anche durante il processo si vedono, continuano a frequentarsi abbastanza alla faccia del perbenismo perugino, e arriva questa sentenza, la Violet non ha diritto a nessun assegno, dunque resta finanziariamente molto penalizzata. Deve restituire i regali che il marito le ha fatto, deve restituire parte dei regali di nozze, insomma una sentenza notevolmente penalizzante. Le due decidono di andare a vivere al mare e si recano in una località della costa romagnola, forse ospiti di qualcuno, cioè non con qualcuno presente, ma ospiti a casa di qualcuno, anche per sfuggire, immagino, alla situazione molto elettrica che c'era a Perugia, perché sicuramente lo scandalo avrebbe avuto ripercussioni nel tempo, e dunque la mossa tattica sembra una buona mossa. Vanno in questa località della costa romagnola, vivono insieme. A un certo punto, ho trovato tutto il carteggio che riguarda il loro caso, insomma la polizia comunque a loro insaputa non perde d'occhio la situazione, continua a seguire questa ragazza, perché è stata sempre Fernanda che è stata considerata quella che ha traviato la brava moglie del professore universitario, diciamo, poiché sulla Fernanda c'erano già dei forti sospetti di omosessualità, di una sua tresca con la sua insegnante di inglese, eccetera, eccetera, è sempre stata lei che è stata considerata quella che perpetrava il peccato maggiore, se così vogliamo dire, e dunque la polizia si mette in moto, le seguono, insomma alla fine di una lunga trafila, di punto in bianco Fernanda viene portata in carcere a Rimini, con l'accusa appunto di omosessualità, cosa piuttosto inusuale sulla quale devo ancora concentrarmi, perché appunto, come ripeto, non era un crimine in sé. Niente, cominciano indagini varie per appurare la sua condotta morale, eccetera, vengono raccolte testimonianze a Perugia, testimoniano tutti, sia la sua insegnante di inglese, ex insegnante di inglese, che conoscenti di Violet, persone che frequentavano assieme, eccetera, eccetera. E, ahimè, arrivano anche lettere anonime che si congratulano per l'arresto di questa giovane donna, considerata una macchia per la vita cittadina. Insomma, arriva la condanna a 3 anni di confino a Castrovillari, piccolo paese della Calabria. C'è un ricorso rispetto a questa richiesta e è molto interessante come viene contestata questa condanna, cioè si dice che il confino è una pena solo prevista in alcuni casi, e questi casi non sembrano affatto questa non sembra affatto una situazione idonea. Dice nel ricorso l'avvocato della nostra Fernanda, dice: al confino di polizia possono essere assegnati uno gli ammoniti, oppure coloro che abbiano commesso o manifestato il deliberato proposito di commettere atti diretti a sovvertire violentemente gli ordinamenti in corso, nazionali, sociali e economici, o altre motivazioni che hanno a che fare con questo. E allora l'avvocato risponde: sicuramente la mia difesa non è ammonita e non ha mai cercato di sovvertire questi ordinamenti, né nazionali, né sociali, né economici, né violentemente né no. Nonostante ciò, la cosa va avanti, perché io ho trovato anche appunto le disposizioni per il trasporto di Fernanda da Rimini a Castrovillari, varie disposizioni, telegrammi, eccetera, eccetera. Però, curiosamente, poi c'è una revoca, perché probabilmente lei riesce tramite qualche inghippo, si fa visitare e insomma il suo avvocato riesce a provare che non può andare al confino per motivi di salute, e da lì si perdono le tracce, di tutti quanti, non si sa che cosa succede né all'una né all'altra per un periodo abbastanza lungo. Forse Violet andò in Africa, mentre su Fernanda si perdono le tracce, non si sa neanche se abbia scontato questi 3 anni agli arresti domiciliari a Perugia, a Roma, non si sa. Devo concentrarmi su questa ricerca, penso che sia un caso molto interessante, e su questo argomento, però ovviamente ricamandoci sopra di fantasia, ho scritto una sceneggiatura, e una sceneggiatura che è stata segnalata al premio Solinas, si trova sul sito del Solinas, che penso sia www.solinas.it. È una storia interessante che io spero di trasformare in un film un giorno, chissà quando. Però appunto è una storia anomala che forse non documenta così bene l'oppressione che le lesbiche hanno sofferto durante il fascismo, l'isolamento, il silenzio, non poter parlare, doversi nascondere. Anzi, questa è una storia di affermazione, come ho detto prima, di 2 donne che tutto sommato, anche all'interno di uno scandalo incredibile, hanno vissuto fino in fondo quello che volevano, come volevano, e dunque da questo punto di vista è una storia veramente eccezionale. Allora, grazie Gabriella. Ci sono arrivati vari sms, tra cui uno in cui ci chiedevano le canzoni di sottofondo di chi sono di Tracy Chapman, e anche la prossima, che è Born to Fight, che vuol dire nata per lottare. Che esistiate, vi sosteniamo pienamente, siamo una coppia straniera, baci da Roma, G e I. Allora, adesso vi leggiamo un documento che ci ha dato sempre Gabriella, che è veramente interessante, perché riguarda una fantastica lettera pubblica della cittadinanza perugina, una lettera di approvazione dell'ordinanza di confino di Fernanda. Questa è una lettera anonima scritta dalla cittadinanza di Perugia al prefetto dell'epoca ed è datata 2 settembre 1928. In quell'epoca si usava fare le lettere anonime quando le persone non erano poi capaci magari di manifestare apertamente quello che pensavano. Ed è interessante leggere quello che dicono perché danno un po' l'idea di quello che era successo. Non fu mai visto in Perugia un plauso maggiore all'opera del Regio Prefetto, come quando fu conosciuto il provvedimento di polizia preso contro Fernanda B. Naturalmente appunto non possiamo dire i cognomi. La sera di domenica 6 agosto gran parte della cittadinanza voleva inscenare una dimostrazione in onore del Regio Prefetto, ma poi non ebbe più luogo, per timore non riuscisse di gradimento al Regio Prefetto stesso. Ormai lo scandalo aveva raggiunto un massimo intollerabile, con grave pregiudizio della pubblica morale. L'unanime consenso è il maggior plauso ad un provvedimento che pone il dito su di una piaga sociale verminosa, che già da troppo tempo formava oggetto di osceni discorsi nella città di Perugia ed anche fuori, poiché le gesta della B e della C, cioè delle due donne, sì, delle sono due note donne. A Firenze, a Bologna, a Roma, a Viterba, che forse è Viterbo, non so, a Rimini ed altrove. Nel generale consenso il popolo, sempre profondamente giusto, ha osservato ed osserva che, per intuitive ragioni, il provvedimento doveva estendersi anche alla C. La C dovrebbe essere l'insegnante di inglese che era amica di una delle due donne, di Fernanda. La B, che sarebbe Fernanda appunto, è una pervertita scaltra, astuta, aveva 18 anni credo all'epoca, capace di tutto, avida di denaro, la quale ha sempre scelto le sue vittime fra le donne ben fornite di denaro e le ha pervertite a suo talento per volgere al suo piacere e trarne un utile pecuniario. Essa, quando le ha afferrate, non le lascia più fino a che non le ha spremute. Linguaggio aulico. Così non lascerà alla C, poiché sa bene che alla morte del padre erediterà circa 7 milioni di lire, poiché è noto che Giorgio C. possiede altri 20 milioni di lire solamente in immobili e ha 3 sole figlie femmine. Qui si fa proprio gossip. Naturalmente essa non vuol mollare e a quanto pare neppure la pubblica sicurezza non può staccarla dalla sua ultima preda. La PS, appunto pubblica sicurezza, non ha mai avuto a che fare con una delinquente più scaltra, più agguerrita e più tenace nel simulare e più ferma nei suoi delittuosi proponimenti. Intanto sono passati 12 giorni dal provvedimento di confino e tutta Perugia sa che essa non vi è andata ancora. Ciò nuoce al prestigio dell'APS, che sembra si lasci gabbare, termini sempre aulici, da un preordinato piano di resistenza a base di malattie simulate e di convulsioni altrettanto simulate. Essa è maestra di queste cose. È noto come or sono 10 anni, quando il padre volle separarla, ma non vi riuscì, dalla Enrichetta, quindi qui dovrebbe avere 28 anni. Oggi lurida, mezzana e pronuba di amori lesbici, con la quale aveva da tempo relazione lesbica. Fece la pazza per un mese e si fece anche rinchiudere, ma poi, riconosciuta la simulazione, per pietà del padre fu fatta uscire. E subito si dette ad organizzare, aiutata da un legale, un ricatto vergognoso al padre stesso, per carpirgli, in accordo con la C, del danaro, nonché la sua ignobile fuga dalla casa paterna. Questo è un documento, fate attenzione, che è allegato proprio a tutto il procedimento che avvenne nel 1928, ed è importante perché poi, se sentite, viene usato proprio il termine lesbico nel 1928, quindi mi sembra abbastanza singolare questa cosa. Continua così questa lettera anonima. Si ricordi che oggi, per l'opera di questa sciagurata, questo è tutto scritto maiuscolo, la rovina del disonore sono piombati su 3 famiglie. Quella illibatissima del professore, cioè il marito di Fernanda, e su quella delle due donne. Al consenso generale si unisce anche la famiglia B, cioè i parenti della Fernanda, zie e cugini, e lo stesso padre di essa, Vittorio, che fa il tabaccaio. ha dichiarato a tutti che la punizione è giusta e che per le tante ribalderie e sudicerie commesse dalla figlia. Però come padre, sebbene da 10 anni non si vede e non si parli con la figlia, sembra che, anche per intercessione di avvocati, si induca ad aiutarla. E mi raccontava Gabriella a questo proposito che questa donna fu diseredata dal padre, però lei sembra che le abbia intentato una causa per avere gli alimenti fino al compimento del 21° anno di età, che lei vinse, e quindi dal 18° anno al 21° anno, malgrado il padre l'avesse diseredata, lei ebbe diritto a questo sussidio mensile. Tre sole sono nell'unanime consenso, le voci discordanti, i genitori, cioè dei viceconsoli inglese Percy e gli avvocati, padre e figlio. Giova sapere con chi si ha da fare. Il modo con cui si sono condotti i genitori di una delle donne ha destato e desta la generale riprovazione. Non essendo state capaci di dividere la figlia dall'amica, sia per scagionarla dalla oscena pubblica accusa, sia per riscattare il disgraziato marito, hanno lasciato che le due femmine vivessero sempre insieme, affermando che si trattava di chiacchiere, mentre essi sapevano bene di che si trattava. La madre, nota alcolista, non può assumere atteggiamento di riprovazione né atteggiamento di condanna verso la figlia, perché tutti conoscono la sua condotta passata. Essa domina completamente il marito, punto intelligente, che essa ha finito di rimbecillire completamente a furia di piantargli un'infinita di corna nella testa. Ricchi per eredità sono sempre, dal punto di vista della loro struttura mentale e morale, quello che erano prima, cioè dei camerieri di albergo, insomma, molti quattrini e molto sudiciume. I'll be working for somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh, mountains of thanks. Have a big expensive car, drag my furs on the ground. Have a maid, I can tell, to bring me anything. Everyone will look at me with envy and with greed. Now revel in their attention and mountains, oh mountains of thanks. Sweet lazy life, champagne and caviar. Hope you come and find me, 'cause you know who we are. Those who deserve the best in life know what a money's worth. Those who sow misfortune is having mountains on nothing at birth. Oh, they tell me still time to save my soul. They tell me we now saw counts all those material things you gave. And wide enough for me and all my mountains, oh thanks. Oh, they tell me still the time to save my soul. They tell me we now saw counts all those material things you gain by exploiting other human beings. viceconsole inglese è soggetto molto interessante. Venne in Perugia circa 40 anni or sono per curarsi di una tubercolosi polmonare e vi guarì e vi rimase. Ha la carica onorifica di viceconsole da soli 6 anni, ha 70 anni. Convive con la sua seconda moglie, nata R, che ha circa 50 anni ed è una lesbica nota a Perugia specialmente per le stranezze che da oltre 20 anni compie verso la sua cameriera di nome Eugenia, che fu sua amante lesbica da ragazza e ha continuato ad esserlo dopo aver sposato lo chauffeur della fabbrica della cioccolata. Sono note le scene di gelosia della appunto come suo nome verso la Eugenia quando questa prese marito. Siccome la F non volle mai separarsi dall'Eugenia, essa con il marito convivono con i si sa come notti intere la F abbia passato scalza e mezza nuda ad origliare alla porta di camera dell'Eugenia maritata. Fernanda, da giovinetta frequentava molto la casa dei F, ove studiava gratuitamente la lingua inglese e vi è chi afferma che dalla F precisamente essa imparasse i primi elementi del lesbismo. Oggi, sebbene le due donne da vari anni non si parlassero e fossero in pieno disaccordo, la Fernanda direttamente, da mezzo del marito, difende la Fernanda per quello spirito di solidarietà di classe che unisce sempre le lesbiche. Qui non si capisce perché solidarietà di classe. Le lesbiche fra loro al pari dei pederasti. Vengono infine in campo gli avvocati, padre e figlio. Essi difendono queste sciagurate perché sono pagati. Gente senza freni morali tirano solo al guadagno. Essi sono degli antifascisti, irriducibili, e meno male. Oggi essi difendono chi ieri pubblicamente accusavano. L'avvocato Francesco ha 3 figli, 2 maschi ed una femmina. La femmina vive oggi a Venezia perché, dati i suoi scandalosi precedenti, non può più vivere in Perugia. Essa fu una lesbica furiosa, accidenti, e dice sì, lo sia ancora sebbene appetisca anche il maschio. Sono noti i suoi furori tribadici con la Gabriella A, figlia degenerata di un grande galantuomo, il professor A, della scuola di veterinaria. La G sposò un disgraziatissimo uomo, il capitano L, dal quale si divise e poi fu annullato il matrimonio. Da vari anni menò una vita scandalosa ed in conseguenza di ciò fu cacciata da vari alberghi, fra i quali il Flora di Roma e l'Helvetia di Firenze. Si dice contraesse anche delle malattie venere, per cui stette male assai e fu anche operata. Il suo esempio fu pernicioso per la giovane moglie del fratello, che sposò una contessina, la quale ha dato luogo a scandali, dopo essersi preso per amante il segretario del marito. Fuggì di casa. La madre la chiamò Lulu. Sembra che essa a Venezia abbia fatto parlare molto di sé. Prima di continuare questa lettura volevo rispondere a Francesca che ci ha mandato un messaggio. Se vuoi, noi tutti i mercoledì fra le 20:30 e le 21 ci riuniamo nella nostra sede. Fra le 20:30 e le 21. Come orario d'inizio, fra le 20:30 e le 21. Cominciamo le riunioni tutti i mercoledì in via San Francesco di Sales, numero 19. Quindi se tu ci vuoi venire a trovare, siamo ben contenti di vederti. Allora, la cittadinanza, noi continuiamo sempre a leggervi questo documento che io lo vorrei far vedere come è scritto, spera che il governo nazionale, ormai che ha incominciato così lodevolmente, voglia continuare nella santa opera di epurazione ed apertamente additare agli sconci gli immorali e noti a tutti. Si parla in tutta la città di una relazione lesbica fra una marchesina e la moglie di un notissimo avvocato. Si parla da tutti della G Erichetta e che ad amori lesbici servirebbe da intermediaria. Sembra una fiction questa. Si parla di un club di pederasti che avrebbe sede nel Palazzo Florenzi, all'ultimo piano, di proprietà del sedicente conte, c'è il nome, notissimo pederasta. I principali sarebbero un marchesino, un baronetto, un cartolaio, un figlio di un tipografo, uno studente in medicina che ha la madre vedova e giovane, un commerciante in cuoio, il figlio di un ex impiegato della congregazione di carità e altri ancora. La cittadinanza di Perugia plaude all'opera del Regio Prefetto e del Governo Nazionale e spera in ulteriori provvedimenti che servono a porre un freno al dilagare di tanta corruzione di cui finora nessuno si è mai occupato. La cittadinanza perugina. Allora, alla fine della serata noi vi salutiamo tutte, siamo contente che ci avete fatto compagnia e vi ricordiamo che giovedì 13 maggio alle ore 18 presso la Casa Internazionale delle Donne, sala convegni primo piano, si terrà l'incontro dal titolo Oppressione a confronto. Allora, leggiamo un messaggino molto carino. Viserba è una cittadina vicino Rimini. Siate bravissime. Kate. Poi il messaggio di prima. Per favore ditemi chi canta quelle canzoni stupende che si sentono sottofondo. PS, siete sempre più brave. Grazie. Bisogna dire ad alta voce quello che tutte le donne pensano in silenzio, denunciare i crimini che hanno per oggetto le donne. Un altro sms, posso chiedervi se ci sarà una puntata sulle prossime elezioni, sui candidati più vicini a noi donne lesbiche o comunque della politica e quanto interessi la causa lesbica? Bella domanda, possiamo informarci. Riflessione, solo una moltitudine di voci, una moltitudine di resistenze, una moltitudine di desideri di cambiamento, un'infinità insomma di buone volontà, di volontà di vivere diversamente potrebbero cambiare il volto attuale del mondo. Le donne lesbiche protagoniste di questi cambiamenti e di queste resistenze. Allora, rispondo a Francesca che ci ha mandato quell'SMS prima. Francesca, i nostri incontri, le nostre riunioni mercoledì sono sempre un momento di incontro e di confronto già tra di noi, quindi se ti vuoi unire sarà un piacere. Everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you. Grazie ancora a Gabriella Romano per il suo contributo.